Allo illustre mio signore. Signore, io so che in me non son più viva. E vego mai che ancora in voi son morta. E l'alma ch'io vi diedi non sopporta che stia più meco vostra voglia schiva. E questo pianto che da me deriva, non so chi il mova per l'usata porta, né chi mova la mano e le sia scorta, quando avvien che di voi talvolta scriva. Strano e fiero miracol, veramente, che altri sia viva e non sia viva e pera, e senta tutto e non senta niente. Sì che può dirsi la mia forma vera, da chi ben mira si vari accidente, un'immagine d'eco e di chimera. Allo illustre mio signore. Signore, io so che in me non son più viva, e vego mai che ancora in voi son morta, e l'alma ch'io vi diedi non sopporta che stia più meco vostra voglia schiva. E questo pianto che da me deriva, non so chi il mova per l'usata porta, né chi mova la mano e le sia scorta. Mille volte, signor, muovo la penna, quando avvien che di voi talvolta scriva. Mille volte, signor, muovo la penna. E questo pianto che da me deriva, a che vergar, signor, carte d'inchiostro, né chi mova la mano e le sia scorta. Mille volte, signor, muovo la penna, quando avvien che di voi talvolta scriva. O tante indarno mie fatiche sparse, o tante indarno mie fatiche sparse, o carte in van vergate da vergarse. Strano e fiero miracol, veramente, che altri sia viva e non sia viva e pera. O vivo foco, o fe, che se ben miri, di tal null'altra mai non alse d'arse, o carte in van vergate da vergarse. Questo fuoco luogo, bisogna che si converta in poema. Per chi arsi ed ardo ancor, canto e cantai, arsi, piansi, cantai, piangarte e canto. Ahimè, le notti mie colme di gioia. Sì che può dirsi la mia forma vera, da chi ben mira si vari accidente, un'immagine d'eco. Io vorrei pur che amor dicesse come debbo seguirlo e con qual arte stile possa sperar di far chi mar di umile o di por io queste amorose some. Io ho le forze omai si fiacche e dome, si spaventosa son tornata e vile, che quasi ad eco immagine simile. Di donna serbo sol la voce e il nome. E con qual arte stile? Io non trovo più rime onde più possa sperar di far chi marde umile. A cui pensando sol mi snervo e spolpo, ond'io mi snervo in bianco. E a me manca la possa. Questo interno disio cresce il dolore, mi consuma le midolla e l'ossa. Io vorrei pur che amor dicesse come debbo seguirlo e con qual arte stile. O di por io quest'amorose some. Ond'io mi snervo in bianco, onde mi struggo ed ardo. Ahimè, le notti mie colme di gioia, quando mi doglio e sfaccio. Io vorrei pur che amor dicesse come e con qual arte stile. O di por io queste amorose some. Nell'umiltà scheletrica delle membra terre, io ho le forze omai si fiacche d'ome. Si spaventosa son tornata e vile. A che vergar, signor, carte d'inchiostro? Io non trovo più rime. Quando mi doglio e sfaccio. Che quasi ad eco immagine simile. Nell'umiltà scheletrica delle membra terre. Di donna serbo sol la voce e il nome. Là nella caldura io ti ho visto. E ho visto la piazza al tramonto slargarsi nel brulichio della fiera dilagando in rosa. E profumare nella sera di essenze stordenti di grasso di porco arrostito, di grasso molle, profumare di tè verde, di menta piperita crepitante nella gola, e ho visto brulicare i budelli grassi oscuri di nero d'occhi a tappeto, tappeto d'occhi nei miasmi grassi dei meandri oscuri, e ho visto mani dalle lunghe ossute dita nere sfornare pani molli e grassi, e ricordo lo lezzo dei pani fragrante, mani dalle lunghe dita nere ossute insinuarsi nella creta per plasmare la materia al primordio laddove la vita mi si forgia da mani viscide e molli. Rosa del Marocco, rosa centifolia, rosa dal rosso, da giallo, rosso sangue che svaria languente in giallo lucente, e poi il deserto fu l'immensamente gialla rosa spampanata dilagante e un venticello fresco finalmente mi piegava, sul tuo sorriso frusciante mi chinava a clessidrare la sabbia stretta nel pugno piccolo e chiuso che trascorreva una scoria del tempo, uno scarto momentaneo dell'anima piegata, e mi sorridi d'un sorriso molle, respiri appena, sorridi sempre di un sorriso molle ad ogni sud del mondo, e tu sorriso forgiatore mescoli acqua e sangue e così mi crei, e io piccione travolto e stritolato sulla strada che porta verso il sud del mondo, e io piume di piccione ricadenti che fioccando lievi sulla vittima piumosa s'appiccicano al sangue raggrumato d'ossa sulla strada dove risplende il tuo sorriso assolato sopra sangue e piume, o sorriso di luce pungente tu mi crei da saliva o liquido trasparente che asperge le piume, e piume ricadono sulle tue pupille innocenti e turpi, sul tuo sorriso che svariando nel ricordo mescola in pasta forgia il rosso giallo lussurioso trofeo di rosa languente, tu superbo, tu supremo, morbido sorriso dell'antico animale umano, luminescente sorriso di sole, sangue, oro, di salmastro marino, di iodio salino, e io vedo il tuo sorriso aprire il viso tutto malizioso, e gli occhietti vicini vedo perdersi di nascosto in un po' di strabo, e come gli uomini blu del deserto tu, corvino, mi mostri solo gli occhi neri, pungoli nascosti occhi di pupo strabo con cui mi pungi e ti balocchi, occhi deserti obliqui tu, occhi a mandorla e sensuale, mi occhieggi lunghe smandorlate in folto di sopracciglia maligne, nel tuo nero accigliato occhi di bocca voraci, o tu bocca larga di denti spampanati radi, o bianco nero sorriso d'occhi bocca che infinitamente perpetuamente alluzza, aguzzi tu occhi da guzzino in casba, sorriso ladro d'occhi su dolce bocca oltremodo dentata e larga di carne in piena, rosa in fingarda, questa è la ferocia del tuo sorriso, quando nel deserto d'ogni sud del mondo la sera sabbiosa dolcemente scirocca e la chiostra tua dei denti è tutta bianca e con gli occhi neri tu sei domenicano e traluce come chiostro monacale pura limpida acqua che brilla nella notte del tuo sguardo, brilla innocente e malsana come Palermo araba e barocca quando al tramonto infine esausta marzapana e sciroppa, quei denti, quegli occhi sono ossa che ridono adesso amari nella forza, essere amaro e turbolento, che ridono sonoramente duri, che ridono in sarcasmo in dolce bocca, che sciroppa l'antica saliva che mi plasma in creta e il roteante terracotta mi forgi, forza dolciastre amara, che in possanza mi crea me cascame, tu nero di barba, di ricci, di pizzo, di pelo, anch'io da saliva plasmata in acqua io nasco, io l'Abruzzo e contratte di fronte a te, o sole, grande muso d'argilla, e io vengo dal gesso, o cosa mai tu puoi fare del povero me colata di gesso, tu grande antico muso d'argilla, muso di gorilla, vedo quegli occhi, quella faccia tanto piacevole, tanto disposta a baciarmi, ciò che sgorga da quegli occhi, da quel volto, è ciò che dissi uscire dal di dentro, che vedo essere dentro in quella tenebra, e io tremulo allampanata e mi accendo e fumo, brillo m'allampano, mi fa tremare con gran veemenza, e canti e pianti e risa e grida e stride e sputi della vastasa, dell'invasata smaniosa di sdarsi, uomo, la tua maschia figura, nel cuore dei tuoi occhi denti domenicani mi disperdo e invaghita vagheggio di leccarne ancora la radice dura per misurare la tua forza ostile, per andare alla radice della forza maschia, per l'antica e feconda voluttà, nell'antica e feconda volontà, quale feroce battaglia s'appresta nella sorda lotta notturna, apro le labbra, mi apri le labbra, io mi andavo abbandonando e la mia resa a te i fumi grassi e gli odori fumiganti, gli odori pingui, tu sei il piacere che strabocca, liquidi baci tra bocche voluttuoso liquore cubriaca, se dico che il tutto bene lo disfaccio, tu faccia ferina, tu mia ferita esposta palpitante, in te angolo buio delle viuzze, io esile nervosa m'accovaccio, in quel bene che si vede nella tenebra, mi rannicchiai tutta quanta, vedevo il tutto bene, fu allora che mi chiamò e mi disse che dovessi mettere la mia bocca nella piaga del suo fianco, io esile nervosa con tanta grazia voglio risucchiarti, ancora ancora voglio risucchiarti, e mi sembrava di scorgere e di bere il suo sangue che scorreva ancora fresco dal suo fianco, là nella caldura, nei budelli tralucenti di sole fendente io ho visto nascere il rosso, in una piccola terracotta roteante circolare farsi il rossetto indelebile che porto come vessillo tragico io oppressi anelante, rosso tragico indelebile, e pregai Dio che mi facesse spargere tutto il mio sangue per suo amore, come come lui aveva fatto per me, opaco e tralucente rosso mestro, che porto sulla bocca che lecchi, che trasporto sulla bocca di te che lecchi il sangue, la rosa rossa svoccia svoccia, o i baci, i baci, rosso mestro dolciastro fiotto di sangue da bocca melodrammatica, o me travolta stritolata traviata, o me traviata morta in emottisi, o me mimi feti da bocca di cantrice in biacca, ti parlo in questo strano modo per darti l'imboccata, nulla più, o me della voce stridula, delle adolescenti limpide voci d'angeli che peccarono, ohimè a me sublime regina adolescente, o me grande funerea regina anglobarocca, il limpida fetida voce biaccosa la carne, in quello del dio uomo sto quasi ininterrottamente, dico nel letto, vedi io nel grande letto le membra sparpaglio, delle mie membra sottili fa languente sparpagliatura, perciò questo letto è il mio letto, perché in questo letto che è la croce di Cristo, io mi sto coricata e tranquilla, io adoro la gaiezza che fa tremare, perciò questo è il mio letto, e intanto da guancia a pancia tu, meraviglioso figuro, teneramente mi infondi nuovo sangue in trasfusione, in effusione teneramente tu accogli la vergine, tu che proclami la mia verginità. O tu che ti disfi e disfiguri, tu preludio di morte certo, come occhieggi furbo demonio, Simon mago dai ferri ricci attorti, ora sogghigni languido e digrignante demone, preludio di morte certa di certo orgasmo, demone che ti disfi e ti sfiguri, mi vedo dannata, non trovo via d'uscita, non trovo nemmeno una feritoia per evadere, aspirami l'anima, tu l'hai sparata, tu io spaurita, io sparuta, aspirami l'anima, io Maddalena dei sette demoni, l'anima per te l'ho venduta, droga per te spacciata, tabacco per te sputato, per te l'ho sprecata, tutto quello che dico è bestemmia, ciò che sto dicendo è detto così male che è quasi una bestemmia, il mio dire è piuttosto un rovinare e bestemmiare che un dire, ecco perché il mio dire è un devastare, ecco perché lo chiamo bestemmiare, aspirami l'anima, tu vorresti forse che volasse, è caduta, ciocca ciocca, s'è sfaldata, io magra e sola con i miei capelli sono restata, io ombra di dolore virgineo di sparvi l'ho dissipata nei tuoi sorrisi muti, nei rigori invernali della tua mente, negli estivi turgori della tua mente, disfatene tu, pura suprema commozione della mia vita. Ammusiamoci, ammanziscimi, vedi come l'ustione mi rovina, quando mi trovo in quella tenebra, preferirei essere arrostita che patire quei mali, e allora urlo, cacciami dall'anima, fa freddo là, meglio quando decresco, quando depongo, cacciami dalle alte sfere, son bolle di sapone, sentì rivolgermi queste parole da questo dio uomo passionato, diceva, vieni a me, colorata di ogni colore delizioso, viscide e mescidano i colori del nostro arcobaleno, e balenano cangiando nella mia rovina, mi stornano da te muso e si scontraffanno nelle smorfie, nelle boccacce il viso mio, il viso tuo malati, disse ancora, voglio fare di te la mia martirella. Poi mi mostrò San Francesco. Allora il beato Francesco mi mostrò una familiarità e un intimo amore oltre ogni limite. Mi dilettavo moltissimo in quella familiarità e amore mostratimi dal beato Francesco. Mi confidò cose segretissime e sublimi. Poi mi disse, tu sei la sola nata da me. Io, chiara santa dell'amor Francesco tu, o divino santo Francesco, San Francesco delicatezza, San Francesco delicatezza di sbirro, cacciami dalle alte sfere, ingannano, son bolle di sapone, esplodono, e resta solo una triste goccia lacrimale che si dissecca, e mi dissecco io trista, e sono la goccina tua, è il mio gocciare tutta quando mi lasci, è la mia lacrima se non concedi, è la mia lacrima se mi rifiuti, se ti rifugi in eremo, sulla strada verso Assisi mi aveva detto, tutta la tua vita, mangiare e bere, dormire e tutto il resto mi piace, disfami, sfamami, io chiara santa dell'amor Francesco, tu santo di ghiaccio, bellezza semplice di tristezza maschia, tu malfrancioso invadimi in chiara luce ad ogni sud del mondo, io chiara e bianca, io piccola cosa bionda e monda, tu santa bruna possanza ti innalzi contro la chiara luce ad ogni sud del mondo, e a me commosso sorgi di contro la chiara luce ad ogni sud del mondo, tu maschio scuro e luce di chiaria, tu sborrami latte la luce tua sul volto fresco, su pelle lucente, tu pelle nera schianta nella chiaria del giorno che nasce. Prima, nel mezzo di quell'oscurità, giacevo distesa per terra. Ora, in questa suprema illuminazione, saltai in piedi e mi ressi sulla punta degli alluci. Ero in tanta gioia, in tanta agilità del corpo, in tanta salute e rifiorire, come mai mi era accaduto con un corpo rinnovato. Ero nella pienezza della chiarità divina. Stanati, allontana da te, allontana da me le alte sfere. Verranno poi gli angeli scarniti, ma adesso gonfiami, fammi venire al bello che trapassa, alla bella morte, o avere un cielo nuovo, un cielo puro, dal sangue d'angeli ambigui, destami dal sonno che divide, dalla benefica incubazio, dalla malarica dormizione, ogni creatura vien meno, o l'intelletto degli angeli non basta, annasca, annasca l'aria, dilata le narici, fremono le froge dei cavalli nella chiaria del mattino che annasca, annaspa, annaspa, scalpita, o di luce nera, di pelo nero, splendente stallone, o monta nero, nero, nero di luce, scalpita, annaspa, mi annasca, mi scalcia, segui l'odore della puledra bianca nell'albume latteo che invischia il tuo orlo del mattino, del giorno che nasce, io un divaga, me femmina cavalla, io la ragazza strusa, strabiliata, stravolta, esorbitata, mi abbatterò soltanto quando le gambe si spezzeranno o quando s'affrolleranno nella corsa pazza, voglio cantare dell'ardente muso, dell'ardesia che mi sbuccia le ginocchia, che mi sgraffia, mi sfigura il viso, sfregiata dall'oltraggio del mancare. Mi vedo storta, immonda, falsa, errante. È puro invece il tuo sorriso deserto, è il deserto puro mentre tu mi diserti, muso, e mai mai ti avrò sublime così bello, muso restio di penitente, muso di ritegno che spavente ossessa, muso silente di fronte a me da muso a musa, ma per le tue spalle larghe io mi smuoro e mi rattrappo se non m'abbracci, e tu, tu potenza raccolta e pensosa, tu ti distacchi. E molte parole piene di dolcezza mi disse, mentre stava per allontanarsi, e si allontanò con grande soavità, pian piano, fermandosi ogni tanto. Allora cominciai ad urlare ad alta voce, con strepito, ed urlavo senza ritegno, ripetendo questa parola: amore sconosciuto, e perché mi lasci? Ma era impossibile, non dicevo nulla di più che le prime parole. Amore sconosciuto, perché non ho, tu stupra, stupra, spregia, impregna, tu schizza, strappa, straccia, strazia, melle, morroissa, io cosa biondina e tutta monda, tutta bocca, io tutta cavernosa, carnosa, io spasimo, convulsa, io sponza, spossata, spossessata, io non dormo, e nelle spallucce mi rattrappo, io non dormo, non mi rassegno io, e fo spallucce, abbracciami, stringimi, non indurire il cuore come a Meriba, vedendomi così sprofondata, allora si innalza la superbia, divento tutta rabbia, tristezza, amarezza, boria, divento tutta rabbia e tristezza, ma nel segreto della nuca dura io cerco, io ti accarezzo, muso duro, con tutte le stonature delle abbandonate, con tutte le striature delle abbandonate, con tutte le strinature delle abbandonate, io nell'abbondante mielosa dolcezza ti accarezzo, muso, coi miei capelli ormai strinati, incatricchiati, coi capelli biondi striati delle strie del salmastro dopo il bagno notturno, sotto la luna, un nuca dura, nuca forte, nuca di maschio ostile, tu muso in cui mi infango, in cui mi infogno, ve mi infoglio, mare io affogo, e sbocca salino e amaro in bocca il turpemente innocente membro, assaporo di tue membra, il liquido disfarsi di te, muso, enorme, triste, iaculante, e non ti posso più trattenere, sei tu tutto vivente, insulto di virus ebola che mi liquefa i muscoli, e in acqua mi riconverte, e mi raggela al caldo, ma pagilmente poi mi sfaldo in mestro, e vuol macello, è tempo di tanza, e in nervo vago io sfrondo i miei lutei, i corpicini, i miei 300-400 vini, e mi foggeggio e mi lascio aggeggiare, e bubbolo dal freddo e mi fai bubbolare, molestami, annientami, sperperati, scutuliami le ossa, i denti, le membra mie tutte inermi, inerti, tutte le potenze dell'anima sono scombussolate sotto i suoi occhi. Quando l'anima vedi questo totale sovvertimento, ha un tale disperato dolore, una tale rabbia che appena è di rado posso piangere, perché l'ira me l'impedisce, talora piango senza freno, talora l'ira cresce talmente che a malapena mi posso astenere dal farmi a pezzi. No, no, o stupro, o rabbia, stormi di storni a colpi di guano a mitraglia, così mai piallata e poi mai infibulata ad ogni sud del mondo. E non ho più la ciccina, e mai dato la pappa scotta, e mai spappolata, come una gatta mai la paratomizzata, e tu vuoi solo l'animuccia santa, nella notte in cui m'allontanavi, nella notte in cui t'allontanavi, ho rabbia, e tutte le mie giunture si disgiungevano, il distacco tu, ti distacchi tu, mi tieni a distanza, per cui tu, come pare, sembri senza amore, tu, o re di cuori, re delle carte da gioco, e dunque un poker muto, un bluff, un imbrogliuccio. E tu dai sbuffi, sbruffi e tirabuffi chiudendoti la giacca, ti infossi senza collo mentre m'affossi, t'annò di stretta la cravatta a cappio e mi dai un buffetto. Ma Dio compie spesso questo gioco nell'anima e con l'anima. Non appena questa cerca di trattenerlo, egli se ne va. Verrà il giorno che mi leverò la biacca, giorno verrà che toglierò la biacca dal corpo e dalla faccia, e allora lotteremo musa a muso. Ma il distacco dietro cui tu sei, il distacco cui a fronte imploro io neretta, io annerita e scomposta, è forse che non posso pigolare, forse che non posso pungolare, oltre il nero dei tuoi occhi ferini e strabi, per mia sola cecità neri oltre il buio, per mio distacco di retina troppo profondi e muti, cui mai dietro io potei vedere profondi e muti, lì non vedo. Devo amore. E allora anch'io persi l'amore che avevo dentro di me. Fui fatta non amore e di mia tonita restò soltanto il sorriso folle dello stregato. Mi espelli, mi espelli, mi espelli. E come carta da gioco slabbrato ora ti sfasci e la sfida suprema ti rifiorisce. Ecco in adrenalina ridiventi la potenza maschia, ingrossi in barba a me, ingrossi in guancia, in pancia, e gli occhi obliqui, sempre più ambigui, obliqui, affondano per sempre nel loro buio, senza fondo e solo, o troppo nero, o troppo fondo, assoluto mistero. E se poi ti ragguaglio sulla guancia gonfia dello schiaffo, per non vederla t'abbuffi, per non vedermi metti su pancia fino agli occhi, distacco la tua pancia, il tuo panciotto, e ti tira anche il bottone sulla patta, o re di cuore, la cui trippa fiacca mi rende stracca. Tu mi espelli, mi espelli, mi espelli. In quel mentre, tra il vederlo e lasciarlo e restare, mi appare Dio uomo e attira l'anima con tale mansuetudine, la attira fino a dirmi talora: tu sei me e io sono te. È cosa buona e guasta, signore, che mi dissesti e transumani. Ma adesso, adesso, re, signore, tu che mi transustanzi e transumani, le mie membra assolate, le mie membra contratte, tutte trasmuta adesso in tuo membro, me divento tua possanza di membro, in te mi membro. Il tuo sorriso brezza fresco adesso, fra palme di mani che ti cercano disperatamente tese. Le mie gambe esili non saranno d'intralcio per farti sfondare il grande buco dell'anima. Io gambe all'anima, maschio, maschio, hai muso, bisogna che approfitti della notte, vedi come marea divento e mi dilato e posso ritirarmi come marea divento, vedi le gambe all'aria io sia riversata, io sia infine regina spodestata. E allora mi attraversò e mi toccò tutta e mi abbracciò. Le gambe esili non sono d'intralcio per farti sfondare il grande buco dell'anima. Le gambe all'aria io sia rovesciata, io sia infine regina spodestata, in beata passività, santa quiescenza. E difatti sentivo tutte le membra del mio corpo piene del piacere di Dio. E allora ti annuso e annaspi, arranco, a te m'abbranchio, sei tu il capobranco, sono il tuo pesce muto. M'atterrisci, guizzo e ti smangiucchio, succhiami come il topo fa con l'olio, suggimi la lingua, tirala, mangia la lingua che ti ripassa tutto, con la lingua tutto il corpo ti ripasso, il tuo corpo io ripasso con la lingua, e culmina il piacere innervandosi nei palmi, il piacere si è fermato sulle punte delle dita, dei piedi, delle mani, più oltre l'unghia culeo non poteva andare, e culmina invocando, sempre invocando il tuo nome, le tue lettere chiare, a piena voce, a chiara voce, adesso o te pre caro o te smargiasso, ah, fammi venire al bello che rimane, ah, al bello che rimane, stando in questo Dio uomo l'anima è viva, io sto in questo Dio uomo molto più che lui con tenebra, in questo Dio uomo l'anima è viva e le mani si percorrono, stringimi, stringimi, ora non stingermi, non t'annebbiare, vedi anche le linee fuggono dalle mani e m'annichilo, t'annichilo, esausti, mentre ancora m'ossessano in corpo le tue posse, solo mi grida in corpo e nella testa, il nome tuo di muso, di maschio muto, o resta, o resta, o resta, occhio fisso che mi trapassa, mentre trapasso orgasmo all'altro mondo. Io non ho saputo voler questo stato, né desiderarlo, né chiederlo. Ora vi sto senza interruzione e son domata. La notte non dormo. Perché?